Roberto Festa. Allora, io sono nella piazza immediatamente antistante la scuola, la sede del Genova Social Forum. Qui la situazione è abbastanza drammatica, ci sono delle persone a terra, è tutto pieno di camionette di polizia. Ciò vicino l'onorevole De Petris, l'onorevole Zirdi, che ha appena avuto una discussione accesa con il questore. Che sta succedendo, onorevole? Ma sta succedendo che sono entrati nella scuola Diaz, hanno sfasciato tutto e hanno cominciato a portare via le persone fuori. Noi siamo arrivati, siamo anche altri parlamentari, e non siamo riusciti a capire che cosa succedeva, qual era la motivazione. Dopo varie telefonate, alla fine col questore, il quale ha accampato la scusa che oggi ci sono stati dei lanci, dei sassi, delle finestre, e che quindi sono stati costretti, e dicendo che siccome lui è un funzionario dello Stato non deve rispondere ai parlamentari, perché non deve spiegare a me quello che devono fare, che cosa stanno facendo, dopo un atteggiamento ieri sera all'ennesimo incontro ipocrita, in cui tra l'altro hanno cercato di scaricare tutte le responsabilità solo sui carabinieri, facendo un po' di moine. E oggi, ancora una volta, dopo che ci avevamo dato tutti i riferimenti in piazza per cercare di contattare e guidare il corteo, siamo stati ancora oggi di nuovo costretti a tentare disperatamente di salvare la situazione, con la totale assenza di qualsiasi punto di riferimento, e qui è una situazione proprio, sembra il Cile, insomma. Grazie onorevole De Petris. Allora, Sciocchi, qui ti dico, la situazione è così visibilmente forte, nel senso che ci sono centinaia di poliziotti, siamo totalmente accerchiati, c'è una persona fino a poco tempo fa che era a terra, perdeva sangue, e l'hanno messa adesso su una unità mobile traumatologica e la stanno portando via. Una scena che credo sia difficile da dimenticare è vedere tutti i ragazzi, tra cui gli amici che avevamo appena salutato da quella parte, correre su per queste finestre illuminate che erano i piani della scuola, inseguiti brutalmente dai poliziotti e ammazzati di botte. Alcuni ragazzi sono stati portati fuori in una strada parallela, in via Trento. In questa strada sono stati fatti inginocchiare per circa 20 minuti e sono stati ammanettati. Da dire che sono presenti qui in via Trento e in via Battisti i legali del Genoa Social Forum, ma non è stato possibile dare assistenza legale a questi ragazzi perché la polizia non l'ha assicurata. Ci sono decine di poliziotti fuori da questo edificio scolastico che fanno barriera, i parlamentari non riescono ad entrare nell'edificio, ci sono ancora tantissimi feriti. Io mi sto girando per le strade vicine a via Battisti e ahimè trovo ragazzi a terra che vengono medicati dal soccorso del Genoa Social Forum. Però non abbiamo ancora un quadro preciso dei feriti, perché li stanno tutti portando via in questo momento con le ambulanze o medicando a terra. Noi eravamo lì al primo piano e non so, sono messi tutti a correre, non si capiva cosa stava succedendo, spaventati a morte, abbiamo iniziato a correre e quindi eravamo così spaventati che non ragioni, insomma, e forse è meglio fermarti lì. Quindi siamo messi a correre per le scale e siamo arrivati a un piano dove era tutto buio, non c'era nessuno, quindi speravamo che, non so, nascondendoci da qualche parte, che non sapevamo neanche chi in realtà fosse. Sopra o sotto? Siete scesi o siete saliti? Siamo saliti. Saliti. E basta, poi abbiamo sentito la furia che entrava da sotto, non so, mi sento urla, non so, una specie di esercito che entra, sono stati i momenti più terrorizzanti della mia vita. Io ho sentito pochi istanti fa il capo ufficio stampa della polizia, Roberto Sgalla, l'assistente di De Gennaro, che ha detto che l'intervento della polizia è risultato a causa di una serie di attacchi lanciati dall'interno della scuola, una volante di polizia che stava facendo un normale controllo sul territorio. Successivamente a questo la polizia è entrata per controllare e identificare le persone e ha trovato una serie di oggetti, tra cui bottiglie Molotov, ha detto Sgalla, le divise complete dei neri, dei blacks, e una serie di feriti che erano già feriti, sostiene la polizia, e che hanno portato fuori. Ecco, sentite, questi sono i ragazzi che stanno iniziando ad urlare a strascinio, credo si senta anche attraverso il telefonino. È iniziato anche un lancio di oggetti. C'è una situazione di tensione, di rischio di scontro molto forte in questo momento, anche perché dovrebbe essere arrivato anche un sostituto procuratore, le autorità dovrebbero essere già presenti qui. Siete di nuovo collegati con Piazza Battisti, dove sono le scuole Diaz e anche e Federico Bogazzi. Ora mi stanno spintonando perché vogliono che esca dalla zona. C'è Agnoletto al centro di di diversi cordoni di polizia, c'è anche, se non sbaglio, anche la Morgantini di Rifondazione Comunista, Ramon Mantovani. Pochi istanti fa c'è stato uno scontro all'interno di questo cordone di polizia, c'è grandissima tensione, è difficile lavorare, spesso i giornalisti vengono invitati a lasciare il posto. Dentro una scuola ci hanno assicurato, ci hanno garantito di poter entrare a breve, però ancora noi siamo fuori, non possiamo andare a vedere la scuola. Questa è la situazione. La versione che dà la polizia di quanto sta avvenendo nelle due scuole di via Diaz, versione completamente diversa rispetto a quella che ci hanno raccontato le persone che stavano lì. A cominciare dal clima, il clima precedente all'irruzione delle persone che ci raccontavano e che stavano lavorando all'interno della scuola era un clima di accerchiamento e non erano normali controlli di polizia come invece sono stati definiti dalla questura. Non ci è stato segnalato alcun tipo di attacco a volanti che si trovavano a passare da lì nel corso di un normale controllo, come detto dalla polizia. Ha trovato la polizia, sostiene, delle persone già ferite all'interno dei locali del Genoa Social Forum. Noi abbiamo parlato nel corso della serata con le persone che stavano lavorando lì e nessuno ci ha raccontato che ci fossero delle persone ferite all'interno dei locali del Genoa Social Forum. È una notizia che proprio a noi non è mai arrivata. La polizia sostiene poi di aver trovato all'interno della struttura due bottiglie Molotov, alcuni quadretti di porfido, aste e altro materiale che sarà esaminato dagli investigatori. Questo sostiene di aver trovato dopo la propria irruzione all'interno dei locali. La questura dice anche che un agente è stato ferito all'interno durante l'irruzione con una coltellata. Questo è il comunicato della questura per spiegare quanto sta avvenendo alla sede del Genoa Social Forum in via Diaz. I racconti che abbiamo avuto a Popolare Network prima del notiziario e durante il notiziario raccontano una storia completamente diversa. Pronto?